Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. Il colonnello Aureliano Buendía promosse 32 sollevazioni armate e le perse tutte. Ebbe 17 figli maschi da 17 donne diverse, che furono sterminati l'uno dopo l'altro in una sola notte prima che il maggiore compisse 35 anni. Sfuggì a 14 attentati, a 73 imboscate e a un plotone di esecuzione. Sopravvisse a una dose di stricnina nel caffè che sarebbe bastata ad ammazzare un cavallo. Respinse l'ordine del merito che gli conferì il Presidente della Repubblica. Giunse a essere comandante generale delle forze rivoluzionarie con giurisdizione e comando da una frontiera all'altra e fu l'uomo più temuto dal governo, ma non permise mai che lo fotografassero. Declinò il vitalizio che gli offrirono dopo la guerra e visse fino alla vecchiaia dei pesciolini d'oro che fabbricava nel suo laboratorio di Macondo. Malgrado avesse sempre combattuto alla testa dei suoi uomini, l'unica ferita se la produsse lui stesso dopo aver firmato la capitolazione di Neerlandia, che mise fine a quasi 20 anni di guerre civili. Si sparò un colpo di pistola nel petto e il proiettile gli uscì dalla schiena senza ledere alcun centro vitale. L'unica cosa che rimase fu una strada di Macondo intitolata al suo nome. Ciò nonostante, secondo quanto dichiarò pochi anni prima di morire di vecchiaia, nemmeno questo si aspettava il mattino in cui se ne andò coi suoi 21 uomini a riunirsi alle forze del generale Victorio Medina. «Eccoti Macondo», fu tutto quanto disse ad Arcadio prima di andarsene. «Te lo lasciamo bene, procura di farcelo trovare meglio». Arcadio diede un'interpretazione molto personale alla raccomandazione. Si inventò una uniforme con galloni e spalline da maresciallo, ispirata all'illustrazione di un libro di Melchiades, e si appese alla fascia la sciabola con le nappe dorate del capitano fucilato. Collocò i due pezzi di artiglieria all'entrata del villaggio. Mise in uniforme i suoi antichi alunni, esacerbati dai suoi proclami incendiari, e li lasciò vagabondare armati nelle strade per dare ai forestieri un'impressione di invulnerabilità. Fu un trucco a doppio taglio, perché il governo non osò attaccare la posizione per 10 mesi, ma quando lo fece, vi scaricò contro una forza così sproporzionata che liquidò la resistenza in mezz'ora. Fin dal primo giorno del suo mandato, Arcadio rivelò la sua passione per i bandi. Ne lesse perfino 4 al giorno, per ordinare e disporre quello che gli passava per la testa. E affinché nessuno mettesse in dubbio il rigore delle sue intenzioni, ordinò che un plotone di esecuzione si esercitasse nella pubblica piazza, sparando contro uno spaventapasseri. Sulle prime, nessuno lo prese sul serio. Ma una sera, mentre Arcadio entrava nella bottega di Catarino, il trombettista della banda lo salutò con uno squillo fanfarone, che provocò le risate della clientela, e Arcadio lo fece fucilare per mancanza di rispetto all'autorità. Chi protestò fu messo a pane e acqua con le caviglie nei ceppi, e messo in una stanza della scuola. «Sei un assassino!» gli gridava Ursula ogni volta che veniva messa al corrente di qualche nuova arbitrarietà. «Quando Aureliano lo saprà, ti farà fucilare e io sarò la prima a rallegrarmi!» Ma tutto fu inutile. Arcadio continuò a stringere il torchio d'un rigore inopportuno fino a diventare il più crudele dei governanti che ci fu mai a Macondo. «Ora provate la differenza», disse una volta Don Apollinar Moscote. «Questo è il paradiso liberale». Arcadio venne a saperlo. Guidò una pattuglia a prendere d'assalto la casa, schiantò i mobili, scudisciò le figlie e trascinò con sé Don Apollinar Moscote. Quando Ursula irruppe nel patio della caserma, dopo aver attraversato il villaggio vociando di vergogna e brandendo di rabbia uno staffile incatramato, Arcadio in persona si preparava a dare l'ordine di fuoco al plotone di esecuzione. «Provaci un po', bastardo!» gridò Ursula. Prima che Arcadio avesse tempo di reagire, gli scaricò la prima staffilata. «Provaci un po', assassino!» gridava. «E ammazza anche me! Figlio di mala madre, così non avrò occhi per piangere la vergogna di aver allevato un mostro!» Sferzandolo senza misericordia, lo incalzò fino in fondo al patio, dove Arcadio si raggomitolò come una lumaca. Don Apollinar Moscote era tramortito, legato al palo dove prima c'era lo spaventapasseri, fatto a pezzi dagli spari di esercitazione. I ragazzi del plotone si dispersero, timorosi che Ursula finisse di sfogarsi con loro, ma non li degnò di uno sguardo. Lasciò Arcadio con l'uniforme stracciata, fremente di dolore e di rabbia, e slegò Don Apollinar per portarlo a casa sua. Prima di uscire dalla caserma, liberò i prigionieri dai ceppi. A partire da quel momento fu lei a comandare nel villaggio. Ma a dispetto della sua gagliardia, continuò a piangere la disdetta del suo destino. Si sentì così sola che cercò la inutile compagnia del marito dimenticato sotto il castagno. «Guarda cosa ci siamo ridotti!» gli diceva, mentre le piogge di giugno minacciavano di demolire la tettoia di palma. «Guarda la casa vuota! I nostri figli dispersi per il mondo! E noi due di nuovo soli come al principio!» José Arcadio Buendía, immerso in un abisso di incoscienza, era sordo ai suoi lamenti. All'inizio della sua pazzia annunciava con urgenti slatinate le sue impellenze quotidiane. In fugaci schiarite di lucidità, quando Amaranta gli portava da mangiare, lui le comunicava le sue sofferenze più moleste e si sottoponeva docilmente alle sue ventose e senapismi. Ma nell'epoca in cui Ursula andò a lamentarsi al suo fianco, aveva perso ogni contatto con la realtà. Lei gli lavava una parte dopo l'altra, lasciandolo seduto sulla panchetta, e intanto gli forniva le notizie della famiglia. «Aureliano è andato in guerra ormai da più di 4 mesi e non abbiamo più saputo nulla di lui», gli diceva, fregandogli la schiena con uno strofinaccio insaponato. «José Arcadio è tornato. È un omaccione fatto, più grande di te, e tutto ricamato a punto croce. Ma è venuto solo a portare la vergogna nella nostra casa». Credette di notare però che le cattive notizie intristivano suo marito. Allora decise di mentirgli. «Non credere a quello che ti dico», diceva, mentre buttava cenere sui suoi escrementi per accoglierli col badile. «Dio ha voluto che José Arcadio e Rebecca si sposassero e adesso sono molto felici». Giunse a essere così sincera nell'inganno che lei stessa finì per consolarsi con le sue medesime bugie. «Arcadio è ormai un uomo serio», diceva, «è molto coraggioso e sta molto bene con l'uniforme e la sciabola». Era come parlare a un morto, perché José Arcadio Buendía era già fuori dalla portata di ogni preoccupazione. Ma lei insistette, lo vedeva così mansueto, così indifferente a ogni cosa, che decise di slegarlo. Lui non si mosse nemmeno dalla panchetta. Continuò così, esposto al sole e alla pioggia, come se le funi fossero vane, perché una potenza superiore a qualsiasi vincolo visibile lo manteneva legato al tronco del castagno. Verso il mese di agosto, quando l'inverno cominciava a eternarsi, Ursula poté finalmente dargli una notizia che sembrava verità. «Figurati che la fortuna continua a perseguitarci», gli disse. «Amaranta e l'italiano della pianola si sposeranno». Amaranta e Pietro Crespi, in effetti, avevano approfondito l'amicizia. E nessuno metteva in dubbio che Pietro Crespi avrebbe fatto di Amaranta una sposa felice. Senza pungolare i sentimenti, lasciandosi trascinare dalla fluidità naturale del cuore, arrivarono a un punto in cui non mancava altro che fissare la data esatta delle nozze. Non avrebbero incontrato ostacoli. Ursula si accusava tra sé e sé di aver deviato con differimenti reiterati il destino di Rebecca e non era disposta ad accumulare rimorsi. Il rigore del lutto per la morte di Remedios era stato messo in secondo piano a causa della mortificazione della guerra, dell'assenza di Aureliano, della brutalità di Arcadio e dell'espulsione di José Arcadio e di Rebecca. Tutto faceva pensare che Amaranta si orientava verso una felicità senza inciampi. Ma al contrario di Rebecca, lei non manifestava la benché minima ansietà. Con la stessa pazienza con la quale imbarocchiva tovaglie e tesseva gioielli di passamaneria e ricamava pavoni a punto a croce, attese che Pietro Crespi non sopportasse più le sollecitazioni del cuore. La sua ora giunse con le piogge nefaste di ottobre. Pietro Crespi le tolse dal grembo il cestino da lavoro e le strinse la mano tra le sue. «Non sopporto più questa attesa», le disse. «Ci sposiamo il mese prossimo». Amaranta non tremò al contatto delle sue mani di ghiaccio. Ritirò la sua come un animaletto scivoloso e tornò al suo lavoro. «Non essere ingenuo», Crespi sorrise. «Neanche morta mi sposerò con te». Pietro Crespi perse il controllo di se stesso. Pianse senza pudore, rompendosi quasi le dita dalla disperazione, ma non riuscì a intenerirla. «Non perdere il tuo tempo», fu tutto quanto disse Amaranta. «Se davvero mi ami così tanto, non mettere più piede in questa casa». Ursula credette di impazzire per la vergogna. Pietro Crespi esaurì le risorse della preghiera. Arrivò a incredibili estremi di umiliazione. Pianse per tutto un pomeriggio nel grembo di Ursula, che avrebbe venduto l'anima per consolarlo. In notti di pioggia lo si vide vagare intorno alla casa con un ombrello di seta, cercando di sorprendere una luce nella stanza da letto di Amaranta. Non fu mai vestito così bene come in quel periodo. La sua augusta testa di imperatore tormentato acquistò una strana aria di grandezza. Infastidì le amiche di Amaranta, quelle che andavano a ricamare sotto il portico, perché cercassero di persuaderla. Non curò più gli affari. Passava la giornata nel retrobottega a scrivere letterine scombinate che faceva arrivare ad Amaranta con membrane di petali e farfalle disseccate e che lei restituiva senza aprirle. Si chiudeva per ore e ore a suonare la citara. Una notte cantò. Macondo si svegliò in una specie di stupore, angelizzata da una citara che non meritava di essere di questo mondo e da una voce tale da non potersene concepire un'altra sulla terra con tanto amore. Pietro Crespi vide allora la luce in tutte le finestre del villaggio, meno che in quella di Amaranta. Il 2 di novembre, giorno di tutti i morti, suo fratello aprì il magazzino e trovò tutte le lampade accese e tutte le scatole musicali aperte e tutti gli orologi impastoiati in un'ora interminabile. E in mezzo a quel concerto stravagante trovò Pietro Crespi seduto allo scrittoio del retrobottega con i polsi tagliati col rasoio e le due mani tuffate in una catinella di benzoino. Ursula dispose che lo si vegliasse in casa. Padre Nicanor si opponeva agli uffici religiosi e alla sepoltura in terra benedetta. Ursula gli fece fronte. «In qualche modo, che né lei né io possiamo capire, quell'uomo era un santo», disse. «E perciò lo seppellirò, contro la sua volontà, vicino alla tomba di Melchiades». Lo fece, spalleggiata da tutto il villaggio, con funerali magnifici. Amaranta non uscì dalla sua stanza. Sentì dal suo letto il pianto di Ursula, i passi e il mormorio della folla che invase la casa, gli ululati delle prefiche e poi un profondo silenzio odoroso di fiori calpestati. Ursula la abbandonò. Non alzò nemmeno gli occhi per impietosirsi di lei la sera in cui Amaranta entrò nella cucina e mise la mano nelle braccia del focolare, finché le fece così male che non sentì più il dolore. Fu una cura da cavalli contro il rimorso. E quando guarirono le scottature, fu come se si fossero cicatrizzate anche le ulcere del suo cuore. L'unica traccia esterna che le lasciò la tragedia fu la benda di garza nera che si mise sulla mano bruciata e che avrebbe portato fino alla morte. Arcadio diede una rara mostra di generosità, decretando con un bando il lutto ufficiale per la morte di Pietro Crespi. Ursula lo interpretò come il ritorno della pecorella smarrita, ma si sbagliò. Aveva perso Arcadio non da quando aveva indossato l'uniforme militare, ma da sempre. Credeva di averlo allevato come un figlio, come aveva allevato Rebecca, senza né privilegi né discriminazioni. Ciò malgrado, Arcadio era un bambino solitario, e spaventato durante la peste dell'insonnia, in mezzo alla febbre utilitaristica di Ursula, ai deliri di José Arcadio Buendía, all'ermetismo di Aureliano, alla rivalità mortale tra Amaranta e Rebecca. Aureliano gli aveva insegnato a leggere e a scrivere, pensando ad altre cose, come avrebbe fatto un estraneo. Gli regalava la sua roba quando era ormai da buttar via, facendogliela accomodare. Arcadio soffriva per quelle scarpe troppo grandi, per quei pantaloni rammendati, per quelle sue natiche da donna. Melchiades fu l'unico che in realtà si occupò di lui, che gli faceva ascoltare i suoi testi incomprensibili e lo istruiva nell'arte della dagherrotipia. Nessuno si immaginava quanto avesse pianto la sua morte in segreto e con che disperazione avesse cercato di farlo rivivere, inutilmente studiando le sue carte. La scuola, dove era ascoltato e rispettato, e poi il potere, coi suoi bandi perentori e la sua uniforme di gloria, lo liberarono dal peso di un'antica amarezza. Una notte, nella bottega di Catarino, qualcuno osò dirgli: «Non meriti il cognome che porti». Ma contrariamente a ciò che tutti si aspettavano, Arcadio non lo fece fucilare. «Ne sono molto onorato», disse. «Non sono un Buendia». Coloro che conoscevano il segreto della sua filiazione pensarono da quella risposta che ne fosse al corrente anche lui, ma in realtà non lo fu mai. Pilar Ternera, sua madre, fu per lui un'ossessione tanto irresistibile quanto lo fu prima per José Arcadio e poi per Aureliano. Nonostante avesse perduto le sue attrattive e lo splendore della sua risata, lui la cercava e la trovava nella scia del suo odore di fumo. Poco prima della guerra, un mezzogiorno in cui lei andò più tardi del solito a prendere suo figlio minore a scuola, Arcadio la stava aspettando nella stanza dove usava fare la siesta e che più tardi diventò prigione. Mentre il bambino giocava nel cortile, lui attese nella maca, tremando di ansietà, sapendo che Pilar Ternera doveva passare di lì. Arrivò. Arcadio la afferrò per il polso e cercò di tirarla nella maca. «Non posso, non posso!» disse Pilar Ternera inorridita. «Non ti immagini come vorrei accontentarti, ma Dio è testimone che non posso!» Arcadio l'afferrò per la vita con la sua tremenda forza ereditaria e sentì che il mondo svaniva al contatto della sua pelle. «Non fare la santarellina!» diceva. «In fondo tutti sanno che sei una puttana!» Pilar dominò il ribrezzo che le ispirava il suo miserevole destino. «I bambini si accorgeranno!» mormorò. «È meglio che questa notte tu non sbarri la porta!» Arcadio l'aspettò quella notte rabbrividendo di febbre nell'amaca. Aspettò senza dormire, ascoltando i grilli confusionari dell'alba interminabile e le ore scandite implacabilmente dagli aironi, sempre più convinto di essere stato abbindolato. Improvvisamente, quando l'ansia si era corrotta in rabbia, la porta si aprì. Pochi mesi dopo, davanti al plotone di esecuzione, Arcadio avrebbe rivissuto i passi perduti nell'aula, le inciampate negli sgabelli e la fine la densità di un corpo nelle tenebre della stanza e i battiti dell'aria pulsata da un cuore che non era il suo. Stese la mano e trovò un'altra mano che aveva due anelli su uno stesso dito e quasi naufragava nel buio. Sentì la nervatura delle sue vene, il suo polso di sventura e sentì il palmo umido con la linea della vita troncata alla base del pollice dall'unghiata della morte. Allora capì che non era quella la donna che aspettava, perché non odorava di fumo, ma di brillantina di fior di campo, e aveva i seni gonfi e ciechi, con capezzoli di uomo, e il sesso petroso e rotondo come una noce, e la tenerezza caotica dell'inesperienza esaltata. Era vergine, e aveva il nome inverosimile di Santa Sofia della Piedad. Pilar Ternera le aveva pagato 50 pesos, la metà delle sue economie di tutta la vita, perché facesse quello che stava facendo. Arcadio l'aveva vista molte volte dietro il banco della botteguccia di viveri dei suoi genitori e non si era mai accorto di lei perché aveva la rara virtù di non esistere completamente se non nel momento opportuno. Ma da quel giorno si raggomitolò come un gatto al calore della sua ascella. Lei andava alla scuola nell'ora della siesta, col consenso dei suoi genitori a cui Pilar Ternera aveva pagato l'altra metà dei suoi risparmi. Più tardi, quando le truppe del governo li sloggiarono dal locale, si amavano tra le latte di strutto e i sacchi di mais del retrobottega. Verso l'epoca in cui Arcadio fu nominato capo civile e militare, ebbero una figlia. Gli unici parenti che lo seppero furono José Arcadio e Rebecca, coi quali Arcadio manteneva allora rapporti di intimità, basati non tanto sulla parentela quanto sulla complicità. José Arcadio aveva piegato la cervice al gioco matrimoniale. Il carattere forte di Rebecca, la voracità del suo ventre, la sua tenace ambizione assorbirono la straordinaria energia di suo marito che da fannullone donnaiolo si trasformò in un'enorme bestia da lavoro. Avevano una casa pulita e ordinata. Rebecca spalancava porte e finestre allo spuntare del giorno e il vento delle tombe entrava dalle finestre, usciva dalle porte del patio e lasciava i muri calcinati e i mobili conciati dal salnitro dei morti. Una sera, all'inizio del suo governo, Arcadio andò a visitarli inaspettatamente. Solo al momento del caffè Arcadio rivelò il motivo della sua visita. Aveva ricevuto una denuncia contro José Arcadio. Si diceva che avesse cominciato ad arare il suo patio e poi aveva continuato dritto per le terre attigue, rovesciando steccati e con i buoi che radevano al suolo capanne di contadini, finché s'era impadronito con la forza dei migliori terreni dei dintorni. Ai contadini che non aveva espropriato perché le loro terre non gli interessavano, aveva imposto un tributo che percepiva ogni sabato con i cani da presa e con lo schioppo a due canne. Basava il suo diritto sul fatto che le terre usurpate erano state distribuite da suo padre José Arcadio Buendía ai tempi della fondazione. Ma Arcadio non era andato a rendere giustizia. Propose semplicemente di creare un ufficio del registro della proprietà in modo che José Arcadio legalizzasse i titoli della terra usurpata, alla condizione però che delegasse al governo locale il diritto di percepire i tributi. Si misero d'accordo. Úrsula venne a sapere solo dopo diversi mesi ciò che era già di dominio pubblico e che la gente le nascondeva per non aumentarle le pene. Quando seppe che Arcadio non soltanto aveva terminato di costruire la casa, ma aveva anche ordinato dei mobili viennesi, vide confermati i suoi sospetti che lui stesse disponendo dei fondi pubblici. «Sei la vergogna del nostro cognome!» gli gridò una domenica dopo la messa, quando lo vide nella casa nuova intento a giocare a carte coi suoi ufficiali. Arcadio non le diede retta. Solo allora Úrsula seppe che aveva una figlia di 6 mesi e che Santa Sofia della Piedad, con la quale viveva senza essere sposati, era di nuovo incinta. Decise di scrivere al colonnello Aureliano Buendía, in qualunque luogo si trovasse, per metterlo al corrente della situazione. Ma i fatti che precipitarono in quei giorni non solo impedirono i suoi propositi, ma la fecero pentire di averli concepiti. La guerra, che fino a quel momento non era stata altro che una parola per designare una circostanza vaga e remota, si concretizzò in una realtà drammatica. Alla fine di febbraio arrivò a Macondo una vecchia d'aspetto cinerognolo, in groppa a un asino carico di scope. Sembrava così inoffensiva che le pattuglie di sorveglianza la lasciarono passare senza fare domande, come uno dei tanti venditori che spesso arrivavano dai villaggi della palude. Andò direttamente nella caserma. Arcadio la ricevette nel locale che prima era l'aula della scuola e che in quel tempo era trasformata in una specie di accampamento di retroguardia, con amache arrotolate e appese agli anelli e stuoie ammucchiate negli angoli e fucili e carabine e perfino schioppi da caccia sparsi per terra. La vecchia si irrigidì nel saluto militare prima di farsi riconoscere. «Sono il colonnello Gregorio Stevenson!» Portava cattive notizie. Gli ultimi focolai della resistenza liberale, disse, stavano per essere sterminati. Il colonnello Aureliano Buendía batteva in ritirata e gli aveva affidato la missione di parlare con Arcadio. Arcadio doveva arrendersi senza far resistenza. «Lei naturalmente ha qualche documento scritto», disse Arcadio. «Naturalmente», rispose l'emissario, «non l'ho. È facile comprendere che nelle circostanze attuali non si porta addosso niente di compromettente». Mentre parlava, si tolse dal corpetto e mise sul tavolo un pesciolino d'oro. «Credo che questo sia sufficiente», disse. Arcadio dovette ammettere che effettivamente era uno dei pesciolini fatti dal colonnello Aureliano Buendía. Ma qualcuno poteva averlo comprato prima della guerra o averlo rubato e perciò non aveva alcun valore di salvacondotto. E così fece imprigionare il messaggero in attesa di verificare la sua identità e decise di difendere le posizioni fino alla morte. Non dovette aspettare a lungo. Le notizie della disfatta liberale furono sempre più concrete. A fine marzo, in un'alba di piogge premature, la calma tesa delle settimane anteriori si risolse all'improvviso in un disperato squillo di cornetta, seguito da una cannonata che fece rovinare il campanile del tempio. In realtà, la volontà di resistenza di Arcadio era una pazzia. Non disponeva di più che 50 uomini male armati, con una dotazione massima di 20 cartucce a testa. E tuttavia si mise alla testa della resistenza. Le barricate furono fatte a pezzi e i difensori si battevano allo scoperto nelle strade, coi fucili finché durava la dotazione di pallottole, e poi con pistole contro fucili, e alla fine a corpo a corpo. Di fronte all'imminenza della sconfitta, alcune donne si lanciarono in strada armate di bastoni e di coltelli da cucina. In quella confusione, Arcadio trovò Amaranta che andava cercandolo come una pazza, in camicia da notte, con 2 vecchie pistole. Diede il suo fucile a un ufficiale che era stato disarmato nella mischia e scappò con Amaranta lungo una strada laterale per riportarla a casa. Úrsula era sulla porta ad aspettare. Arcadio lasciò Amaranta con Úrsula e cercò di affrontare 2 soldati. Ma le vecchie pistole fecero cilecca. Proteggendo Arcadio con il suo corpo, Úrsula cercò di trascinarlo fino alla casa. «Vieni, per Dio!» gli gridava. «Adesso falla finita con le mattane!» I soldati li presero di mira. «Lasci quell'uomo, signora!» gridò uno di loro. «O non rispondiamo!» Arcadio spinse Ursula verso la casa e si arrese. All'alba, dopo un consiglio di guerra sommario, Arcadio fu fucilato contro il muro del cimitero. Nelle due ultime ore della sua esistenza non riuscì a capire perché era scomparsa la paura che lo aveva tormentato fin dall'infanzia. Impassibile, senza nemmeno preoccuparsi di far mostra del suo recente coraggio, ascoltò gli interminabili capi d'accusa. Pensava a Ursula, che a quell'ora doveva essere sotto il castagno a prendere il caffè con José Arcadio Buendía. Pensava a sua figlia di 8 mesi, che non aveva ancora nome, e a quello che sarebbe nato in agosto. Pensava a Santa Sofia della Piedad. E gli mancarono i suoi capelli sciolti sulle spalle, le sue ciglia che sembravano artificiali. Pensava alla sua gente, senza sentimentalismi, in un severo rendiconto con la vita, cominciando a capire quanto amava in realtà le persone che più aveva odiato. Il presidente del tribunale di guerra iniziò il suo discorso finale. Anche se i capi d'accusa comprovati non fossero sufficienti, diceva, la temerarietà irresponsabile e criminale con la quale l'accusato ha spinto i suoi subordinati a una morte inutile basterebbe per fargli meritare la pena capitale. Nella scuola semidistrutta, dove aveva provato per la prima volta la sicurezza del potere, a pochi metri dalla stanza dove aveva conosciuto l'incertezza dell'amore, Arcadio trovò ridicolo il formalismo della morte. In realtà non gli importava la morte, ma la vita. E per questo la sensazione che provò quando pronunciarono la sentenza non fu una sensazione di paura, ma di nostalgia. Non parlò finché non gli chiesero quale fosse la sua ultima volontà. «Dite a mia moglie», rispose con voce alta e chiara, «che dia alla bambina il nome di Ursula». Fece una pausa e confermò: «Ursula, come la nonna! E ditele anche che se quello che deve nascere nasce maschio, lo dovranno chiamare José Arcadio, non per lo zio, ma per il nonno». Prima che lo portassero al muro, padre Nicanor cercò di assisterlo. «Non ho niente di cui pentirmi», disse Arcadio, e si mise agli ordini del plotone dopo aver bevuto una tazza di caffè nero. Solo quando gli ordinarono di mettersi con le spalle al muro, Arcadio vide Rebecca coi capelli bagnati e un vestito a fiori rosa che apriva finestre e porte in tutta la casa. Fece uno sforzo perché si accorgesse di lui. In effetti Rebecca guardò per caso verso il muro. Restò paralizzata dallo stupore e riuscì appena a reagire per rivolgere ad Arcadio un cenno di addio con la mano. Arcadio le rispose nello stesso modo. In quell'istante gli puntarono contro le bocche affumicate dei fucili e udì distintamente le encicliche cantate di Melchiades e sentì i passi perduti di Santa Sofia della Piedad, vergine, nell'aula e provò nel naso la stessa durezza di ghiaccio che aveva notato nelle narici del cadavere di Remedios. «Oh cazzo!» riuscì ancora a pensare. «Mi sono dimenticato di dire che se nasceva femmina la chiamassero Remedios!» Allora, come accumulato in una zampata lacerante, tornò a sentire tutto il terrore che lo aveva tormentato durante la vita. Il capitano diede l'ordine di fuoco. Arcadio ebbe il tempo di gonfiare il petto, sollevare il capo senza capire da dove sgorgava il liquido ardente che gli bruciava le cosce. «Cornuti!» gridò. «Viva il Partito Liberale!»